The Call, Backstreet Boys, e noi siamo arrivati al momento dei saluti e voglio fare gli auguri a Fergal. Oh, thank you, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Fergal, tanti auguri a te. Sono emozionato, grazie. Come hai ricordato? No, me l'hai ricordato tu ieri, anzi, non lo so come, qualcuno me l'ha detto. Domani è il compleanno di Fergal. Ha detto, ma guarda un po', il giorno della liberazione è anche il compleanno di Fergal, quindi una puntata. È stato un giorno della liberazione per mia madre tutti quei anni fa. Sì, infatti. Comunque dicevo, ci sarà una puntata di Southside in cui ti regali un bel po' di buona musica, no? Eh sì, oggi c'è tutte le musiche che avrei sempre voluto ascoltare sulla radio. Un po' delle musiche solide di Southside e un paio di pezzi classici, vecchi oppure do, non perdere oggi. Perfetto, quindi mi raccomando, fate bene attenzione a Southside, perché sarà anche questo un modo per conoscere meglio Fergal, perché vi farà ascoltare la sua musica preferita, no? Possiamo fare qualche piccola presentazione, grazie, anticipazione? Well, iniziamo con il più grande gruppo di rock di tutti i tempi. Sto parlando dai quattro ragazzi di Liverpool. Chi sono? I Beatles, no? Bravo. Poi viene un altro gruppo di nome World Party. Vabbè, se dico tutto, basta dire che è un programma classico oggi. Perfetto. Quindi non perdete Fergal tra pochissimo. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto anche Roberto che ha curato la parte tecnica e Pino Esposito che ci ha informati per tutto il pomeriggio. Lo farà ancora tra pochissimo. Vi aspetto domani a partire dalle 16. Ciao a tutti, ancora auguri da Alex. Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Sono le 18, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. This is Fergal Kavanagh. You're very welcome to questo special edition of Southside. C'è Roberto Bottone ai controls e siamo pronti a partire il 25 aprile, ragazzi. È il compleanno della democrazia italiana e quindi, Italy, it's your birthday. Happy birthday to you. Birthday, we're gonna have a good time. Ragazzi, questa canzone la conosco da un sacco di tempo. Viene dal White Album dai Beatles del 1968. E mi sono chiesto sempre, ma perché dicono è compleanno tuo? Sai, è anche compleanno mio. Non mi sembrava una situazione vera, ma adesso ho trovato proprio il modo di sfruttare questo brano al massimo. It's my birthday too. Yeah, we're gonna have a good time. Allora, mi ricordo 10 anni fa quando ho fatto una mega festa e mi sono trovato sul palco con un sacco di amici e abbiamo fatto una bella concertino e questa canzone di World Party, Message in a Box, è stato il mio pezzo forte, diciamo. says, give a little bit, give a little bit of your love to me. Outside. The loudest, the most powerful. Aguas di Marco from Smoke City, bellissimo che è messo in onore del fatto che oggi 25 aprile sembra che almeno a Napoli è arrivato la primavera. Che bella giornata, beh, bella musica on Southside, pubblicità per noi. Spot time. Siete pronti per l'evento rock dell'anno? Sul palco dell'Heineken Jamming Festival, Vasco Rossi e Guns N' Roses per un weekend di grande musica. All'autodromo di Imola il 16 giugno, Vasco Rossi, Alanis Morissette, Irene Grandi, Marlene Kunz, Stereophonics. Il 17 giugno, Guns N' Roses, Offspring, Placebo, Incubus e molti altri. Heineken Jammin' Festival. Sounds good. Kiss, kiss. Dalla ricerca Collister, i rivoluzionari auto abbronzanti ad effetto naturale. Vuoi una splendida abbronzatura tutto l'anno anche senza sole? Prova i nuovi auto abbronzanti Collister ad effetto naturale. Crema viso, crema corpo e il praticissimo spray. Perfetti anche per l'uomo. Auto abbronzanti Collister, in profumeria. Collister. Io guardo il risultato. Alle 18, per un'ora, Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Southside. Southside. Here we go.

I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Bellissimo, that's Clint Eastwood dai Gorillaz, mi piace tantissimo, che dà proprio la voglia di ballare. Allora ragazzi, 25 aprile, che è successo? This Day in Music, torniamo indietro, 1980, e vediamo Hugh Cornwall, il cantante dai Stranglers, è stato rilasciato da prigione dopo 6 settimane, dopo aver possessato l'eroina a Londra, Pentonville Prison. Here are the Stranglers with Golden Brown. Golden brown, texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown. With golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Network. Here we are again. Not for you. if not for you. Grande, il pezzo è stato scritto da Bob Dylan, ma questa è la versione di George Harrison, chitarrista, come sappiamo tutti quanti, dai Beatles, e questo viene dall'album All Things Must Pass, che è stato inizialmente uscito negli anni 70 e è stato ripubblicato in una versione deluxe proprio un mese fa, e io vi le consiglierei se vi piace la bella musica. Allora, a proposito della bella musica, Bruce Springsteen è tornato al suo potente potere pieno, eccolo with American Skin. Shots, and we'll take that ride across this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin. Gets the son ready for school. She says, on these streets, child rules. You've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. And promise mama you'll keep your hands inside. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living. You're American. A new radio station.

Magari quelli che non sono familiari con il vecchio lavoro di David Bowie credono che questo è un pezzo dai Nirvana, però no, attenzione, viene dall'album The Man Who Fell to Earth, That's the Man Who Sold the World from David Bowie, e questa versione è stata registrata negli studio dei BBC a giugno dell'anno scorso. Bellissimo, piccola pubblicità per noi. Spot time. La squadra verde alla mia destra, quella rossa alla mia, la mia, forza tutti insieme, sinistra, al mio via i numeri 2, 6, 20 e 53 fanno un giro su se stessi, prendono la bandiera e la sventolano. Se non hai il coraggio di chiudergli la bocca, mandagli un messaggio. Blu ti regala 50 sms al mese non cumulabili per i mesi di maggio, giugno e luglio se ricarichi la tua SIM Blu On dal 10 al 30 aprile. Osa di più, scrivi. Pronti? Via! Blu, il futuro che non c'era. Vuoi una lente a contatto nuova ogni giorno? Focus Dailies, le lenti a contatto giornaliere confortevoli e pratiche senza liquidi per la disinfezione e a un prezzo conveniente. Provale dal tuo ottico. Focus Dailies, praticità e comfort. È un dispositivo medico, autorizzazione alla pubblicità P970. Giuliani, salute, benessere e bellezza. In questo comunicato parliamo di bellezza. Cellulite, cosa dicono le donne? Contro la cellulite? Ne ho sentite troppe e ne ho provate tante. Però adesso uso Dimagrasi Cell Giuliani. In mezzo a tanta confusione ho scelto la serietà della ricerca Giuliani. Dalla ricerca Giuliani, Dimagrasi Cell, una formula innovativa a base di estratti vegetali. Dimagrasi Cell Giuliani, le perle che aiutano a contrastare la cellulite. Funziona? Chiedetelo in farmacia e poi chiedetelo al vostro specchio. Giuliani, siamo quelli dell'amaro. Sì. Pronto? Concorso Digital Gusto Amorositas. Con che? Ma lo sa che ore sono? Sì, è l'una di notte e so anche cosa si vince. Ogni giorno t-shirt, lettori DVD ed MP3. E con l'estrazione finale, tante fotocamere digitali. Insomma, ho vinto. Vinto un corno! Sveglia! Il numero giusto è 02 44 886 886. Oppure vai sul sito www.morositas.it. Concorso Digital Gusto Amorositas. Digiti giusto, vinci di gusto. Pronto? Concorso. Ancora? Outmin. This is the. Kiss Kiss Network. Southside. The loudest. The most powerful. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, you're flaming me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin, you're flaming me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. I'm a stranger in this town, you're free with me. And our eyes locked in outcast love, I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. Don't you see? Così bello questo, posso immaginarmi di stare sulla spiaggia verso quest'ora che sto tutto caldo e magari sono riposato con questa musica che mi dà la brividi, i brividi. That's Jeff Buckley from the album Sketches for My Sweetheart the Drunk. Vi consiglio, se non lo conoscete, di comprare subito l'album Grace, che è un capolavoro. E poverino Jeff Buckley, purtroppo è scomparso nel 1997 e ci dispiace per questo, abbiamo perso un grande star. Ragazzi, you're listening to Southside, purtroppo questa è la terz'ultima edizione che si riprenderà, speriamo, in un'altra forma, però venerdì è l'ultimo, ecco Moby. See myself in the pouring home. See the light come over, no. I see myself in the pouring rain. I watch hope come over me. Just a perfect day, drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just watch your soul. You're going to reap. Just watch your soul. Classico Perfect Day, that's Lou Reed, e questo viene dall'album Transformer. Voi magari la conoscete pure attraverso il film Trainspotting, ogni giornata perfetto. Ragazzi, questo è un pezzo che sicuramente la conoscete, la versione di Vasco Rossi, grande italiano, però magari non sapete che è una canzone irlandese di origine. Questi sono The Emotional Fish, che sono stati in Italia ad accompagnare gli U2 sul Zoo TV Tour, e questo pezzo si intitola Celebrate. This party's over. I'm going home, festeggiamo! She insists that she's a lunatic, closer to the phone. She hardly ever visits upstairs with rather telephone. Well, I guess beauty does what beauty does best. It's beautiful. Since that's the trouble with reality is taken far too seriously. I do hope God is good to me and Santa Claus. The children celebrate. This party's over. I'm going home. To celebrate. This party's over. I'm going home. Essential complications are hung up on confused. It's a planet full of traffic lights and traffic light abuse. But that's no stranger than strange or any other stranger. He claims it's dangerous to be innocent. Should a victim every time. Histories of insanity intruding on the same. Celebrate. This party's over, I'm going home. This party's over, I'm going home. Questo festo è finito, sto tornando a casa. Ragazzi, questo è in onore del compleanno vostro, compleanno mio e anche il terzo ultimo edizione di Southside. Voglio ringraziare Roberto Bottoni sui controlli, voglio ringraziare a tutti quanti voi e non dimenticate, ragazzi, abbiamo l'appuntamento domani alle ore 18. Buon 25 aprile. Southside, per un'ora Virgo ti proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, l'ultimo appuntamento del giorno con le news.